GR24, il sole 24 ore. Intesa UE crolla lo spread, le borse europee volano. Euro 2012, l'Italia batte la Germania e vola in finale contro la Spagna. Sondaggio SVG, cala il PD e torna a salire il Movimento 5 Stelle. Incendi, Obama dichiara lo stato di calamità in Colorado. Buongiorno dalla redazione da Adriana Fracchia. In primo piano l'accordo in sede europea sul pacchetto di misure anticrisi. Ci colleghiamo subito in diretta con Bruxelles, con Sergio Nava. Buongiorno. Buongiorno da Bruxelles, battute ormai finali per un summit che ha vissuto il suo clou nella notte. Il vertice ha prodotto le misure d'urgenza necessarie a stabilizzare l'euro e allontanare gli scenari peggiori per Italia e Spagna che il premier Mario Monti aveva posto come precondizione alla vigilia. Ampi sorrisi hanno caratterizzato il rientro dopo una notte quasi insonne, con Monti visibilmente rilassato. Soddisfatto anche il presidente della BCE Mario Draghi, che pochissimi minuti fa è sceso in sala stampa. Ascoltiamo subito Draghi. All these things should be, to be credible, should be accompanied by strict conditionality. Draghi si è detto soddisfatto dell'accordo notturno, ha affermato che l'utilizzo dei fondi salva stati avviene secondo le linee guida di questi meccanismi e ha sottolineato come le misure decise nella notte sulla ricapitalizzazione delle banche, per essere credibili, dovranno essere accompagnate da una stretta condizionalità. Ha anche aggiunto che la Commissione europea presenterà una proposta per la creazione di un meccanismo di supervisione bancaria all'interno del quale la BCE potrà assumere un ruolo di coordinamento. Nell'attesa di ulteriori dettagli, ricordando anche che tutti gli aspetti tecnici saranno nero su bianco dall'Eurogruppo del 9 luglio, vediamo ora i punti principali decisi nella notte. Per quanto riguarda l'Italia, il premier Monti ha ottenuto che il fondo salva stati acquisti i bond dei paesi nel mirino dei mercati. Lo si farà sulla base di un memorandum d'intesa. Il fondo utilizzerà la BCE come agente per condurre le operazioni di mercato. La Spagna e i paesi con il sistema bancario in difficoltà potranno invece vedere il proprio settore creditizio ricapitalizzato direttamente dal fondo, che perderà il suo status di creditore preferenziale. Questo però avverrà dopo l'introduzione di un sistema di vigilanza bancario europeo coordinato dalla BCE. Infine, una notizia dell'ultima ora: i 27 paesi hanno raggiunto anche un accordo sul brevetto europeo. Maggiori dettagli nelle prossime ore. Da Bruxelles è tutto. Grazie Sergio Nava. Ascoltiamo i contenuti di questo accordo siglato nella notte. Il vertice prosegue, ma alcuni punti sono già stati raggiunti. Prima di tutto il piano per la crescita. Gli interventi previsti valgono circa 130 miliardi. Ci sono i project bond per finanziare progetti infrastrutturali e la ricapitalizzazione per 10 miliardi della Banca Europea per gli investimenti. Previsto anche il recupero di risorse comunitarie. Viaggia, non si sa quanto spedita, anche l'unione del sistema bancario. La proposta è quella di realizzare un sistema di sorveglianza unico su tutte le 8.000 banche europee, affidato alla BCE, e uno schema comune di garanzia dei depositi. Più complessa ma ugualmente affrontata anche l'unione di bilancio, che richiede la creazione di un ministro del tesoro europeo, limiti ai deficit e ai debiti pubblici nazionali e la possibilità di intervenire modificando le finanziarie dei singoli paesi. Aperto anche il dossier relativo agli eurobond. Per il momento però si tratta solo di un accenno, perché la strada verso la condivisione dei debiti sovrani sarà molto lunga. Nella notte Spagna e Italia hanno vincolato la propria posizione a due punti chiave: la ricapitalizzazione diretta delle banche spagnole e lo scudo antispread. Sia Madrid che Roma hanno portato a casa il risultato. In particolare per i paesi presi di mira dalla speculazione, ma in linea con le richieste di Bruxelles, scatterà l'acquisto di titoli di Stato per calmierare il differenziale. L'acquisto verrà fatto dai fondi salva stati attraverso la BCE. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. Corrono tutti i mercati europei dopo le intese sul piano antispread. Gli aggiornamenti da Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Le borse sono partite questa mattina a razzo. In avvio guadagnavano il 3%, addirittura più 4 per Madrid. Poi hanno rallentato un po' il passo a metà mattinata. Dopo le parole di Mario Draghi hanno ripreso tutte quante a correre. Milano più 3,22% sul FTSE MIB. Parigi più 2,80%. Francoforte più 2,61%. Londra più 1,40%. L'euro sul dollaro a 1,2581. Ieri l'euro gravitava intorno a quota 1,24, quest'oggi è volato fino a 1,2627. Volano tutte le banche a Piazza Affari, ma soprattutto l'effetto più forte si è visto sul mercato obbligazionario. Chiaramente il nostro termometro di riferimento è sempre lui, lo spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale. Era partito questa mattina sui livelli di chiusura di ieri a 466 punti base, precipitato a 409, poi è risalito, adesso viaggia sui 400 231 punti, quindi il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è leggermente sotto il 6%, livello sul quale comunque stava questa mattina. La reazione dunque appare piuttosto positiva, dovrebbe mantenersi così per tutta la giornata al netto di sorprese negative nel corso delle prossime ore. Soprattutto oggi valuteremo anche la reazione di Wall Street, che ieri in attesa del vertice europeo era stata piuttosto tiepida. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani e adesso ci colleghiamo con Antonio Pollio Salimbeni per un commento sull'accordo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, come commenti questo accordo? Ma l'accordo, avete riferito le parole di Mario Draghi, ha detto espressamente che si tratta di risultati tangibili per l'Eurozona. Condivido pienamente questo giudizio. In effetti questo è il giudizio generalizzato qua anche da parte di Angela Merkel. La cancelliera tedesca deve adesso vendere quanto deciso qui al Bundestag, al Parlamento tedesco, riunione alle 5 di questo pomeriggio. Infatti adesso dice che naturalmente la filosofia tedesca di approccio alla gestione della crisi dell'Eurozona non è cambiato rispetto alle premesse. In realtà molto è cambiato, ma lei ha questo problema ed è giusto che se lo ponga. Grazie allora Antonio Pollio Salimbeni, e veniamo invece ora alle reazioni della politica all'accordo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, l'accordo di stanotte a Bruxelles sembra rimandare l'ipotesi di voto in autunno. Anche il PDL è il partito più critico alla vigilia del vertice, lo dice ormai chiaramente per bocca del vice capogruppo alla Camera Osvaldo Napoli. Riaggiunti gli accordi indicati da Silvio Berlusconi, dice Napoli, chi pensa ad elezioni si metta sereno. Più scettico invece Maurizio Gasparri, tifiamo per un futuro di crescita dell'Italia e dell'Europa e per questo ci auguriamo che i risultati del vertice siano positivi, ma attendiamo le conclusioni per un giudizio finale. Da parte del PD Paolo Gentiloni è convinto che si voti ad aprile con un'offerta politica diversa anche da quella attuale. Ci saranno, dice Gentiloni, tentativi di liste civiche nel centro-sinistra, nel centro-destra e nel centro, nicchie e anche quel che si preannuncia il boom, il Movimento 5 Stelle. Nel frattempo però ci sono fibrillazioni nel centro-sinistra per la possibile alleanza tra PD e UDC. Contestano IDV e SEL, Di Pietro e Vendola si presenteranno alla Camera in una conferenza stampa per chiarire quali saranno le prossime mosse. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Ora parliamo di un sondaggio dell'SVG. Cala il Partito Democratico e torna a salire il Movimento 5 Stelle. Torna a guadagnare consensi il Movimento 5 Stelle. La formazione vicina a Beppe Grillo tocca quota 20,8% e riduce a poco meno di 2 punti la distanza con il PD, che seppure in leggera flessione si conferma come primo partito. A fotografare le intenzioni di voto degli italiani è il sondaggio settimanale realizzato dall'istituto SVG per conto della trasmissione Rai Agora. In risalita di mezzo punto è anche il Popolo delle Libertà, ma a crescere è soprattutto il partito del non voto, che resta sopra quota 40%. Quasi un italiano su due in pratica non ha ancora deciso per chi votare o pensa che non andrà a votare. Secondo l'SVG, il 59% degli intervistati poi ritiene probabile che il governo Monti riesca a concludere la legislatura. Quanto alle primarie, per quelle del centro-sinistra, Bersani sarebbe il favorito, dietro di lui Vendola. Nel centrodestra invece in testa c'è Berlusconi, seguito da Alfano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riprendiamo il notiziario parlando anzitutto degli europei di calcio e del grande successo dell'Italia di ieri sera contro la Germania. Ce ne parlano Dario Ceccarelli e Carlo Gente in diretta. Buongiorno. Di secondi al termine, 2-1 per l'Italia. Siamo al 49esimo, siamo 7 secondi oltre il 94esimo. Neuer, il portiere, ancora ad arma forte alla sua squadra in avanti. Finita. Finisce qui, chi lo avrebbe mai detto? Italia in finale. Eccoci qua, buongiorno a tutti, una grande serata con grandi emozioni che ricorderemo a lungo. L'Italia, con una fantastica doppietta di Mario Balotelli, ha conquistato l'accesso alla finale di domenica con la Spagna. Dicevamo una serata indimenticabile che ricordiamo qui col nostro inviato Carlo Genta, che è appena arrivato. Allora Carlo, come va? Intanto hai dormito un po'? Poco perché il volo stamattina era molto presto. Beh, bellissimo, bellissima notte. Sai, ti racconto subito una cosa strana. Tornando verso l'albergo per la via del centro c'era ovviamente festa, c'erano bandiere italiane, c'erano cori italiani, cantati però da voci molto poco italiane. Cioè, abbiamo conquistato tutti i neutrali, visto che di nostri connazionali lassù ne ho visti davvero pochissimi. Abbiamo conquistato tutti i neutrali che facevano il tifo per noi e cantavano i cori in italiano. Ci siamo globalizzati ormai, l'Italia sì. Punta all'Europa, come ha dimostrato anche il nostro premio. Senti, adesso intanto si avvicina la Spagna. Sentiamo Cesare Prandelli che parla appunto del prossimo obiettivo, perché non è finita. Quello che può succedere non lo so, grande situazione, perché questi ragazzi hanno dimostrato di avere una grande volontà e grande voglia di stupire, e quindi speriamo di recuperare forze, poi domenica ce la giocheremo. Già, ce la giocheremo. Cosa dici, Carlo? Ce la giocheremo assolutamente perché l'Italia in queste tre durissime settimane è cresciuta più della Spagna. L'abbiamo incrociata alla prima partita del nostro europeo, è andata piuttosto bene, come ci ricordiamo. Mi sembra la Spagna meno irresistibile dell'ultimo quadriennio, cioè quello in cui ha conquistato tutto, europeo prima e mondiale poi. È comunque una squadra fortissima, una squadra che ha anche dei vizi, la strada del gol la trova con una certa fatica, però maestri del possesso palla, del centrocampo, certo, eccetera eccetera. Mi sembra però, Dario, una squadra che è cresciuta meno rispetto a noi. Anzi, mi sembrava che con il Portogallo fosse in lieve calo. Sì. Beh, con il Portogallo in lieve calo, anche perché Del Bosque ha cercato di accontentare l'opinione pubblica mettendo una punta che non serviva a nulla. La Spagna ha un suo stile di gioco molto particolare, irreplicabile, però io credo che questa Italia così convinta e così forte appunto nelle sue certezze possa quantomeno giocare una partita massimamente equilibrata, direi. Poi hai visto la differenza, anche noi facciamo fatica a fare gol, però in tornei così, torno a ripetere, se vuoi un po' anacronistici, della sudden death, dentro fuori, che bruciano tutti in un attimo, la differenza la fa il colpo del campione. Cassano, ecco. Balotelli li abbiamo aspettati a lungo e ieri sera premio è arrivato. Senti, partiamo dal primo, Mario Balotelli, che è stato un po' l'eroe della serata. Ecco, di lui si è detto molto, è stato discusso, però mi sembra che ieri abbia dato proprio così, abbia celebrato, come per dire, sono qui, sono finalmente il vero Mario arrivato. Sentiamolo un attimo mentre ringrazia Cassano e Montolivo per gli assist. Fantastico, veramente solo lui penso può fare una cosa del genere. Anche nelle partite precedenti e mi sono arrivate tante occasioni e purtroppo non sono riuscito a fare gol, però è così il calcio, penso che lo sai meglio di me, a volte hai tante occasioni e non riesci a fare gol, e altre volte ne hai poche e ti va dentro, è questione di anche un po' di fortuna. A tutte e due, sono due gol importanti e sono serviti per vincere questa partita, quindi sono due gol che mi ricorderò nella stessa maniera. Ecco, per due gol importanti, ce ne sarebbe stato bene anche un terzo che sembrava non arrivasse più e poi ha creato qualche problema. Beh, guarda, io ti dico, la Germania ha fatto paura, ma proprio paura, nel primo quarto d'ora, quando sembrava fossero lì per passare, avevano in mano il centrocampo, avevano messo in gabbia Pirlo e sul piano del ritmo e fisico ci stavano aggredendo e schiantando. Abbiamo avuto un po' di fortuna su quei due rimpalli, il salvataggio di Pirlo, il rimpallo di Barzagli, e poi il calcio è bello per questo, no? Perché arriva tac, Balotelli, Cassano, Balotelli, e quel gol ha tramortito davvero la Germania, cioè ha cambiato atteggiamento, continuava ad attaccare ma non con quella pressione, con quella ferocia che aveva prima. Il secondo gol l'ha letteralmente uccisa, tanto che, guarda, ti dico la verità, il secondo tempo è stata una partita da guardare con classico sigaro in bocca. Sì, gli ultimi minuti però, quando c'è stata quella pressione vicino al rigore, insomma. Ma vedi, però anche dopo il rigore non hanno, sai, era tardi, 91esimo, 92esimo, però pensi di vivere gli ultimi due minuti sui chiodi, invece era troppo forte la sensazione di avere la partita in mano. Ecco, l'ultimissima cosa, non è che questa sbornia deconcentri un po'? No. A questo punto no, non sono scemi, saranno concentratissimi. Io credo che non sia neanche un problema di energie fisiche, perché le energie nervose sono quelle che serviranno per giocare la partita con la Spagna. Non c'è nessuna sbornia. poi c'è gente d'esperienza in questo gruppo, Buffon, Pirlo, sanno come si fa, sanno qual è la strada. Benissimo, grazie a Carlo Genta e adesso ridiamo la linea alle altre notizie del giornale. Grazie appunto anche a Dario Ceccarelli e anche i finalisti del premio Strega hanno seguito la partita tra Italia e Germania. Divisi dallo Strega, uniti per tifare Italia. Due fra i cinque finalisti del premio letterario più ambito d'Italia hanno seguito la partita della nazionale in un hotel di San Pietroburgo, dove lo Strega si trova in trasferta. Seduti vicini Emanuele Crevi, che concorre con Qualcosa di scritto, e Alessandro Piperno, finalista con Inseparabili. Ogni tanto qualche commento sottovoce, un po' di tensione, poi l'esultanza per i gol, ma sempre misurata, come si addice ad un intellettuale. Ecco i commenti di Crevi e Piperno a fine partita. Siamo tutti e due della Lazio, quindi un affetto segreto per un attaccante del tedesco in realtà, che non ci ha impedito di tifare l'Italia. Alessandro Piperno, tu di questa Italia che cosa ne pensi? Beh, decisamente meglio di quanto immaginassi all'inizio degli europei, insomma, li abbiamo veramente devastati. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Pietroburgo. E ora andiamo negli Stati Uniti, dove Barack Obama ha dichiarato lo stato di calamità in Colorado perché gli incendi hanno già distrutto 300 abitazioni e fatto la prima vittima. Il presidente oggi visiterà la zona per valutare i danni. Hanno provocato una prima vittima gli incendi che da giorni stanno devastando il Colorado. Un corpo è stato infatti ritrovato all'interno di un'abitazione distrutta dalle fiamme a Colorado Springs, la città epicentro degli incendi. Il presidente americano Barack Obama ha dichiarato lo stato di grave catastrofe e oggi si recherà nella zona per valutare lui stesso i danni. Waldo Canyon Fire ha già distrutto più di 300 abitazioni e portato all'evacuazione di 36.000 persone. La metà delle risorse federali per la lotta contro gli incendi è attualmente impiegata nello stato, dove le alte temperature e la siccità stanno peggiorando la situazione. A Colorado Springs, che si trova a 100 km da Denver, la capitale dello stato, sono stati già distrutti dal fuoco 7.500 ettari di vegetazione. Giorgia Minnoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Qualsiasi soluzione politica deve portare al popolo siriano una transizione con una prospettiva per il futuro condivisa da tutte le parti, stabilire misure per la realizzazione di tale prospettiva e raggiungere l'obiettivo senza ulteriore spargimento di sangue. Sono questi i principi guida della roadmap elaborata dall'inviato speciale Kofi Annan che verrà discussa a Ginevra sabato 30 giugno. Lutto cittadino a Viareggio nel giorno del terzo anniversario della strage ferroviaria. Ieri la procura di Lucca ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini a 32 persone. Alle 23.48 del 29 giugno 2009, un treno merci composto da 14 carri cisterna deraglia vicino alla stazione di Viareggio. Una delle cisterne, che contengono GPL, si fora. Il gas ha 4 minuti di tempo per diffondersi prima che una scintilla lo faccia detonare. A causa dell'esplosione muoiono 33 persone. Oggi, a 3 anni di distanza, la città, di nuovo a lutto, ricorda le sue vittime. Questa sera un corteo percorrerà le vie di Viareggio fino alla stazione, dove arriverà alle 23.52, l'orario dell'esplosione. È prevista la partecipazione di circa 20.000 persone. Ieri, proprio alla vigilia della ricorrenza, la Procura di Lucca ha concluso le indagini che hanno coinvolto 32 persone e 9 enti. I reati ipotizzati sono di disastro ferroviario colposo, omicidio e lesioni colpose. Tra gli indagati c'è anche Mauro Moretti, amministratore delegato di Trenitalia. Davide Maria De Luca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ennesimo sbarco dell'estate 2012 in Salento è avvenuto sotto gli occhi dei turisti e ha lasciato a terra almeno 84 persone. Sono stati proprio i passanti ad allertare i carabinieri della compagnia di Tricase e poi la capitaneria di porto di Gallipoli, che ha mandato in mare una motovedetta per verificare che non vi fossero migranti in acqua ed evitare un'altra tragedia come quella del 19 giugno. E ora la cronaca con un'inchiesta contro l'Ndrangheta. Da Cremona a Venezia, su questo asse geografico si concentra il futuro degli investimenti dell'Ndrangheta. A dirlo è Roberto Pennisi, sostituto procuratore nazionale antimafia, che il 17 aprile 2012 ha svolto una audizione di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, il cui contenuto è noto solo ora. È zona di delocalizzazione quest'asse, afferma Pennisi, che l'Ndrangheta lametina e crotonese non colonizzerà mai, per evitare di commettere l'errore commesso dall'Ndrangheta regina. L'Ndrangheta lametina e quella crotonese continueranno invece in questa attività di delocalizzazione. Questo punto è importante perché se non si capisce qual è la strategia criminale dell'Ndrangheta con riferimento ad un certo territorio, spesso si corre il rischio di commettere grandi errori investigativi. Se andiamo a cercare i reinvestimenti, cioè il denaro che parte dal sud ed è diretto al nord, ha detto ancora Pennisi, rischiamo di fare un passo nel vuoto. In realtà, e qui dobbiamo un minimo sorprenderci, lo scopo è il contrario, ci ricorda il PM antimafia, creare ricchezza nel nord Italia per farla convergere verso il sud. Parole scioccanti quelle del sostituto procuratore nazionale antimafia, che però devono aprire gli occhi di tutti su quello che è il futuro degli investimenti dell''Ndrangheta, che mai come in questo momento ha un'enorme liquidità da mettere a disposizione. Roberto Galullo, GR24, Il Sole 24 Ore. Un weekend infuocato con temperature record su tutta Italia. Le previsioni del tempo appaiono chiare agli esperti. Da oggi una nuova ondata di aria calda proveniente dal Nord Africa investirà il nostro paese. Si tratta di Caronte, il traghettatore che ci porterà dentro l'estate. Sentiamo il meteorologo Mario Giuliacci. Partirà un'ondata di caldo, il cui apice però sarà tra sabato 30 e lunedì 2 luglio. Queste saranno le giornate più roventi e su aree come l'Emilia, la Romagna, il Trentino, le regioni centrali, eccetto le coste e la Puglia, verranno raggiunte anche i 37-38 gradi. Oggi col Sole 24 Ore, primo appuntamento con iniziativa editoriale L'estate rovente con il tuo amico Sole. Doppio appuntamento ogni settimana, il venerdì con i libri per capire la crisi, il martedì con i libri invece per decidere. Si comincia oggi con il volume Fate presto, titolo che riprende l'apertura del Sole 24 Ore dello scorso 10 novembre. Il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, al microfono di Sebastiano Barisoni. L'obiettivo è molto semplice. È quello di dare al lettore del Sole 24 Ore la possibilità di ritrovarsi con questo giornale, di avere davvero un amico al suo fianco. Noi abbiamo vissuto un anno terribile, quindi abbiamo deciso di raccontare da una parte la grande crisi, i temi dell'economia raccontati dalle firme del Sole. Il primo libro è Fate presto, e poi avremo Guido Rossi sui capitalismi, Giuliano Amato sull'Europa, il mercato, Zingales, Unione Disunione, Adriana Cerretelli, tutte le firme del Sole. Però quello che io voglio dire, perché raccontiamo, perché rivivere questo anno, collocarlo, sistematizzarlo, vedere che cosa è accaduto ogni volta che si è preso un intervento, aiuta il lettore, aiuta il cittadino italiano a capire che cosa è accaduto. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia Pietro Lacorte, un saluto e un augurio di buona giornata da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.